This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Amici di Dietrologia Videoludica, benvenuti. Chi vi parla è il vostro sound designer di fiducia, Carlo Burigana. No, stavolta non vi condurrò nei meandri di doppiaggio o sound design, bensì cercherò di far luce su alcuni a dir poco surreali avvenimenti che si sono susseguiti durante questi ultimi mesi tra le pagine internet del settore videoludico. Ebbene sì, sto parlando proprio della misteriosa cessazione di rapporti tra Hideo Kojima e Konami. Innanzitutto facciamo un po' di storia. La software house giapponese Konami nasce nel lontano 1969 ed eredita il nome dall'unione delle iniziali dei cognomi dei suoi padri fondatori, Kozuki, Nakama, Matsuda. Al suo esordio il business della società non poteva essere più lontano dal produrre videogiochi. Infatti la Konami degli anni 70 si occupava del noleggio e assistenza tecnica di jukebox e soltanto alcuni anni dopo comincia a dedicarsi alla progettazione di coin-op da sala giochi. A partire dagli anni 80 la società cambia sede da Osaka a Tokyo e inizia a carburare molto bene, producendo e sviluppando quelle che sarebbero divenute delle intramontabili icone videoludiche, come Castlevania, Pro Evolution Soccer, Track and Field, Silent Hill e, ultimo ma non meno importante, la serie Metal Gear. Ed è impossibile parlare di Metal Gear senza parlare di Hideo Kojima, il suo creatore. Nato nel 1963 a Tokyo, fin da ragazzo ha sempre dimostrato una propensione naturale verso il cinema e la scrittura, passioni che l'avrebbero successivamente dirottato verso il mondo videoludico e da cui avrebbe tratto forte ispirazione per la creazione delle sue opere e dei suoi personaggi. Prima di Metal Gear, Kojima si fa i muscoli su progetti minori, la maggior parte di questi omaggi al suo titolo preferito, Super Mario, che avrebbero messo in luce il suo talento di producer agli occhi di Konami. La gloria per lui arriva nel 1986, anno in cui Kojima dà alla luce Metal Gear, il primo capitolo di una lunga saga, al tempo destinato alla piattaforma MSX2. Metal Gear proponeva fin dal suo esordio una trama a sfondo fantapolitico assolutamente visionaria e originale, figlia dello stile narrativo peculiare di Kojima, messo a punto negli anni a suon di sceneggiature e racconti che egli da ragazzo scriveva cercando delle pubblicazioni sulle riviste giapponesi del settore, cosa che non sempre avveniva in quanto alcuni dei suoi racconti sfioravano anche la soglia delle 400 pagine. Con la serie Metal Gear arriva l'età dell'oro per Kojima, che riceve anche una promozione a vicepresidente di Konami, carica a cui lui stesso rinuncerà per dedicarsi maggiormente allo sviluppo di videogames e per capeggiare il nuovo team offertogli da Konami, Kojima Production, divisione sussidiaria foraggiata dalla stessa Konami, che arriva a offrire lavoro durante il periodo di massima espansione a più di 200 impiegati. Il primo titolo lanciato sotto il marchio Kojima Production è Metal Gear Solid Portable Ops, capitolo in esclusiva per piattaforma PSP, la prima portatile di Sony, che non ha ricevuto un grande favore di critica, al contrario di quanto invece succederà due anni dopo all'ennesimo capitolo destinato al mercato portatile, Peace Walker, che verrà successivamente convertito in alta definizione per le console casalinghe PlayStation 3 e Xbox 360. Dopo aver prodotto altri due titoli sotto il marchio Metal Gear, rispettivamente Metal Gear Solid Snake Eater 3D per il 3DS e il discutibile spin-off Revengeance, sviluppato dai talentuosi Platinum Games, Kojima Production torna a far parlare di sé nell'agosto 2012, durante l'evento che festeggiava il 25esimo anniversario della serie Metal Gear, con l'annuncio di un nuovo capitolo, Metal Gear Solid Ground Zeroes. Le cose cominciano a farsi insolite. Infatti, nel dicembre dello stesso anno, dopo una serie di brevi e incomprensibili messaggi caricati su siti fantasma, fa la sua comparsa un video il cui protagonista sembra essere un agonizzante Big Boss che tenta di fuggire da un ospedale militare assediato. Il proprietario del video in questione è un misconosciuto team svedese chiamato Moby Dick Studios, capitanato da un certo Joachim Mogren, nome che successivamente si scoprirà essere l'anagramma di Hideo Kojima. La farsa durerà almeno altri 3 mesi, tra illazioni e ipotesi di confusi appassionati della saga, fino all'annuncio ufficiale di Metal Gear Solid The Phantom Pain, durante la GDC del 2013. Occasione in cui Kojima e il suo team hanno presentato il nuovo motore grafico Fox Engine, destinato a muovere non uno, ma ben 2 titoli in lavorazione. Uno in uscita all'inizio del 2014, Ground Zeroes, mentre l'altro, The Phantom Pain, destinato alla fine del 2015. Entrambi seguiti diretti di Peace Walker. Ben presto gli altarini di Konami cominciano a cadere con le dichiarazioni dei PR di Kojima Production e dello stesso Kojima, che durante le interviste lasciano presagire che Ground Zeroes altri non è che un'anticipazione di quanto succederà in The Phantom Pain. Le cose si complicano quando, a breve distanza dalla data di rilascio, alcuni giornalisti del settore commentano aspramente la durata di Ground Zeroes, affermando che può essere completato in appena 3 ore di gioco. Da lì in poi cominciano a serpeggiare le ipotesi di complotto legate al gigante Konami, che avrebbe forzato Kojima a produrre e lanciare sul mercato una demo giocabile a pagamento, nel disperato tentativo di monetizzare e tamponare gli esborsi di denaro destinati a Phantom Pain, in sviluppo ormai da troppi anni. Durante la Gamescom 2014, sul palco della conferenza Sony fa la sua comparsa PT, quella che sembra essere una nuova misteriosa proprietà intellettuale in esclusiva, sviluppata dal misterioso team 7780 Studios. Ben presto si capirà che PT è l'acronimo di Playable Teaser, una sorta di demo giocabile in prima persona, nonché un concept di quello che sarà il nuovo capitolo di Silent Hill, in sviluppo presso Kojima Production e mosso dal Fox Engine, che avrà come protagonista Norman Reedus, il Daryl di The Walking Dead, e l'accoppiata Guillermo del Toro e Hideo Kojima in cabina di regia. La demo in questione proponeva molti spunti interessanti ed era costellata di una miriade di interrogativi, molti dei quali sfociavano nella paranoia. A questo proposito, alcuni youtuber hanno condotto dei veri e propri studi approfonditi sull'interazione con i misteriosi eventi apparentemente casuali legati alla demo, alcuni dei quali darebbero accesso a finali o scene alternativi, o addirittura ad informazioni e messaggi segreti sullo sviluppo del gioco e sui suoi creatori. Bene ragazzi, da questo momento in poi le cose cominciano a complicarsi non poco, quindi attenzione. Il clima apparentemente sereno in cui Hideo Kojima condivide quotidianamente le foto di The Phantom Pain sul suo account Twitter e fa spesso la sua comparsa nel video podcast Kojima Station viene compromesso da alcune notizie, che sulle prime vengono scambiate per voci false messe in circolazione ad arte dai numerosi haters di Hideo Kojima. All'inizio infatti non si dà troppo peso alle dichiarazioni che vedrebbero Hideo Kojima stufo delle pressioni di Konami e ad un passo dalla decisione di mollare tutto per concedersi ad altre produzioni che non riguardano la serie Metal Gear. Ma durante le settimane a seguire, quelle che sembravano solo illazioni cominciano ad assumere connotazioni più concrete, moltiplicandosi come eco impazzite tra le pagine dei portali del settore videoludico. A partire dalla metà di marzo 2015, dovunque si legge Kojima intende lasciare Konami ad un passo dalla finalizzazione di Metal Gear Solid 5. Porterà a termine i lavori del gioco, ma solo come consulente esterno della società. A poco servono le rassicurazioni dei portavoce di Konami, che nel clima di panico mediatico dei fan della serie peggiorano soltanto le cose. A distanza di appena poche settimane, all'inizio di aprile, la conferma arriva come un secchio d'acqua gelata. Hideo Kojima lascia Konami e il mondo dei videogiochi. Da lì in poi seguirà il silenzio stampa della casa madre, che non risponderà più alle domande dei giornalisti inerenti a Kojima o che tenteranno invano di far luce sull'oscura faccenda. Alcuni articoli e video approfondimenti verranno addirittura censurati da Konami, come è successo allo youtuber Super Bunny Hop, che ha condotto un'interessante analisi sui rapporti tra Konami e Kojima Production, mostrando anche della documentazione confidenziale fornita da alcuni insider anonimi. Il teatrino dell'assurdo si conclude con la cancellazione dei loghi relativi a Hideo Kojima e Kojima Production da tutto il materiale illustrativo del quinto capitolo di Metal Gear Solid e sui restanti capitoli della saga, disponibili all'acquisto sugli store online. Infine, la cancellazione del playable teaser di Silent Hills, il cui progetto verrà perlomeno ufficiosamente cancellato. Quest'ultimo fattore vedrà molti utenti eBay approfittare del caos mediatico e rivendere a cifre astronomiche la propria console PlayStation 4 con la demo di Silent Hills preinstallata. Alcuni di questi annunci arrivano anche a migliaia di dollari di prezzo. Durante questo clima di cancellazioni e rimandi, a farne le spese è anche il quinto capitolo di Metal Gear Solid in uscita a inizio settembre, i cui preordini presso le maggiori catene di negozi subiscono una discreta ondata di disdette. A tentare di salvare la situazione arriva l'appello dei doppiatori giapponesi del gioco, che sui social network tentano in ogni modo di rassicurare i fan che l'uscita di The Phantom Pain non subirà variazioni. L'epurazione virtuale di Kojima dalla scena videoludica, oltre a scatenare le ire di tutti i fan della serie Metal Gear, ha dato vita a una vera e propria sottocultura internettaria, che ha generato a sua volta delle vere e proprie cacce al tesoro di improbabili e talvolta disturbanti messaggi in codice sulle passate opere di Kojima Production, che per alcuni addirittura profetizzavano molti mesi prima l'abbandono di Hideo Kojima dalle scene videoludiche. Tra questi figurano un finale alternativo della demo giocabile di Silent Hills, in cui, mediante una gabola durante il gioco, potremo ascoltare un'angosciante voce telefonica che parla di un padre annoiato seduto sul divano, che giocava sempre agli stessi giochi e che poi avrebbe deciso di sterminare la sua intera famiglia. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food. La voce telefonica conclude il suo personale delirio con un inquietante «Tornerò e porterò con me i miei nuovi giocattoli». L'ennesimo messaggio in codice compare in Metal Gear Solid Ground Zeroes, più precisamente durante la missione bonus Deja Vu, in cui Big Boss avrà il compito, guarda caso, di scansionare e cancellare tutti i logo dei prodotti legati a Metal Gear Solid nascosti all'interno di Camp Omega. Una volta conclusa la missione, la voce alla radio di Miller comunicherà a Snake che i marchi possono anche essere rimossi, ma la memoria rimane. Al di là dei fanatismi e delle sedute spiritiche degli appassionati delle opere di Kojima, i fattori più preoccupanti sono ben altri in questa faccenda. Stando ad anonime dichiarazioni di impiegati di Kojima Production, sembra, e ribadisco sembra, che Konami negli ultimi tempi abbia operato una vera e propria manovra a tenaglia verso il team di Kojima, limitandone l'accesso ai social network e alla rete, e praticando una sorta di mobbing costante che avrebbe portato alcuni dipendenti esasperati a lasciare spontaneamente la società. L'ultima e desolante conferma arriva il 12 luglio, giorno in cui un tweet di Akio Otsuka, la voce ufficiale giapponese di Snake, preannuncia la chiusura di Kojima Production. Da lì a poco non tarderà la comunicazione ufficiale dei portavoce di Konami, che confermerà la definitiva chiusura del team e la riallocazione dei collaboratori all'interno delle varie sedi della casa madre giapponese. Una domanda si rincorre tra le pagine dei portali videoludici. Come mai si è arrivati a questo? Perché i rapporti tra un creativo di talento come Kojima, al lavoro per Konami da quasi 30 anni, sono cessati in queste circostanze misteriose? E soprattutto perché così rapidamente? Le voci di corridoio vedrebbero alla base di questa inspiegabile scissione tra Kojima e Konami una profonda divergenza di vedute tra Hideo Kojima e il presidente di Konami, il signor Kozuki, il quale vorrebbe espandere la società verso ulteriori modelli di business oltre quelli attuali, abbracciando il florido mercato mobile ed altri settori in via di sviluppo come il fitness o il wellness. Da qui in poi possiamo solo chiederci cosa sia veramente successo. Che Kojima abbia rifiutato l'invito di Kozuki ad aumentare la produzione a discapito della qualità dei successivi capitoli di Metal Gear? Probabile, dato che la media di realizzazione di un singolo capitolo della saga non ha mai portato via meno di 4 anni, fatta eccezione per i progetti destinati a piattaforme portatili. Pensandoci potrebbe essere una motivazione valida, visti gli scarsi risultati del mercato videoludico giapponese, ancora profondamente relegato a vecchie strutture piramidali e che non può più permettersi gestazioni infinite per tenere il passo del mercato videoludico globale. Che invece Konami abbia chiesto a Kojima di trasporre il suo prodotto in qualcosa di completamente diverso rispetto al videogioco e che lui si sia opposto. O che magari le motivazioni alla base del licenziamento siano da attribuire ad un'antipatia di fondo fra i due. Probabilmente non scopriremo mai la verità e le ragioni che hanno portato a questa rottura rimarranno un segreto tra Hideo Kojima e Konami. Una cosa però è certa. Nel momento in cui ascolterete questa registrazione, il misterioso silenzio stampa di Hideo Kojima continua, così come continua il rifiuto di commentare con chiarezza l'intera questione da parte di Konami. E voi? Che idea vi siete fatti di questa storia? Aspettiamo i vostri commenti sulle pagine di Dietrologia Videoludica. A presto! This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.